24 mattino. Marco Travaglio mi ha appena dato il suo nuovo libro. È il Kama su Travaglio. È il libro delle posizioni consigliate da Travaglio per raggiungere il massimo piacere. Vi leggo alcune posizioni in sequenza. Posizione 1, insultare Berlusconi. Posizione 2, delegittimare Berlusconi. Posizione 3, sputtanare Berlusconi. La 4, inquisire Berlusconi. Rinviare a giudizio Berlusconi. Processare Berlusconi. Varie. Insomma, sono tutte le posizioni. Maestro Genegnocchi, beh sì, Kama su Travaglio, hai raggiunto il top, caro Gene. Siamo a livelli altissimi di satira, di racconto, tante cose che accadono, perché oggi vi devo dire che c'è l'imbarazzo della scelta. Sono giornate morte, senza notizie, senza niente da raccontarvi. Ma se uno vi dice che Trump sposta l'ambasciata a Gerusalemme, nel territorio più conteso della storia del mondo, e scoppia la guerra, e il titolo di Repubblica: Trump scatena l'ira araba. Il fondo di Bernardo Valli: colpo fatale sul cammino della pace. L'ambasciata americana a Gerusalemme, ovviamente spostandola dalla capitale di Israele, ovviamente diventa un gesto politico, un gesto che cambia la percezione delle cose. È la foto centrale di Repubblica, con degli ebrei ortodossi affacciati sulla spianata della città sacra, sacra per tutte le religioni. La Verità: crack Banca Etruria, la cocca di Renzi deve andarsene. Poi un titolo su quattro righe: quelle indagini mai svolte sui rapporti telefonici fra il faccendiere massone e fratello della Boschi. Il fondo di Maurizio Belpietro: groviglio di interessi, la sottosegretaria si dimetta. Libero: arriva il biotestamento, ma resta vietato morire. Il Parlamento è un dormitorio, si svegli. Alè, il fondo è di Vittorio Feltri, ma la foto è quella di Michela Brambilla, che sembra stia tirando per la coda o prendendo per il fondo schiena una tigre, ed è l'anticipazione del nuovo libro di Michela Brambilla, Due tigri dalla parte degli animali. Azzurra, noi barbuto. Sul Libero, Corriere della Sera, anche qui l'apertura è su Gerusalemme, capitale di Israele, strappo di Trump, sale la tensione in Medio Oriente, timori nell'Unione Europea. Il fondo di Paolo Lepri: difendere la pace. Il sole 24 ore. Allora, intanto facciamo il conto alla rovescia, fra poco arriva il frodi, IVE, prescrizione, salve, le regole italiane, e va bene. E fra un giorno arriva il supplemento sul denaro e la tecnologia. Dalle app ai bitcoin, la guida al risparmio e a nuove tecnologie. Domani con il sole iniziate a mettere la casella sul calendario. Però attenzione, fisco, Unione Europea, 17 paesi, questa è l'apertura del sole, in lista nera. In questa blacklist anche la Corea del Sud e gli Emirati. Sotto esame, pensate, 47 stati. Oggi, professionisti, le responsabilità e le novità sulle polizze, un altro inserto che si può avere con 50 centesimi in più del quotidiano. E poi di spalla, però a me interessa, mi sembra una delle cose più importanti, ILVA, blitz di Calenda, enti locali disponibili a ritirare il ricorso. Si sta parlando del conflitto fra il presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, che hanno mosso ricorso contro di fatto il patto per salvare l'ILVA. Un pezzo di taglio che leggeremo: la fattura elettronica estesa anche ai consumatori. C'è anche un questionario per capire: ma io la devo fare, io ho un'attività, posso fare questa fattura elettronica? Vi spieghiamo tutto fra poco, quando lo leggo. Avvenire: leggi, sprint finale, priorità sbagliate. Avvenire ce l'ha con il calendario che seppellisce di fatto lo Ius Soli. Marco Tarquinio: una fine ingloriosa, si chiede il direttore. Il Fatto Quotidiano, un altro titolo su quattro righe: il PD vuole tappare la bocca a Ghizzoni, può sbugiardare la Boschi su Etruria. Ricordiamo sempre, ex amministratore delegato di Unicredit, il test chiave della causa civile che vede coinvolta la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio e il direttore, l'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Il tempo dell'Utri va scarcerato, continua la campagna del quotidiano di Gianmarco Chiocci, ma vogliono tenerlo dentro. E poi una foto centrale per la gioia del nostro regista, parte lo stadio della Roma. Il giornale, mai più maxi bollette, le novità per i contribuenti, sia la norma di Forza Italia, addio conguagli oltre 24 mesi. E poi una notizia interessante, poi la legherò con un altro pezzo del Sole. Pensioni, i nostri figli al lavoro, ne parlo nel Money, fino a 71 anni. 71 anni, signori, 71 anni la generazione dei lavori forzati. La Stampa, Israele, lo strappo di Trump, ambasciata a Gerusalemme, via da Tel Aviv, entro 6 mesi. La città santa, trincea del Medio Oriente, di Giordano Stabi e l'inviato a Beirut. La vignetta di Staino. La sinistra, sinistra, candida il presidente del Senato, la presidente della Camera è vicina a loro. Voi del PD e Pisapia, che fate? Stiamo pensando di candidare Mattarella. Ale. I due corsivi, quello di Gramellini sul Corriere e quello di Mattia Feltri, sono sul caso di Brescia. Kit Carson a Brescia. Il Manifesto. La miccia, l'ambasciata USA sarà trasferita, ovviamente il Senato, biotestamento sì, Ius Soli no, il titolo di taglio, questo è il Manifesto. E anche qui c'è OCSE, i ventenni al lavoro fino a 71 anni e oltre. Messaggero, Trump, strappo su Gerusalemme, la giustizia capovolta che punisce il cittadino e il fondo di Carlo Nordio, la foto centrale sui giallorossi che vincono col Karabakh e arrivano all'impresa. Stesso titolo del Corriere dello Sport, il quotidiano di Vocalelli con un manolassa, braccia aperte, pugni chiusi, ma non è un saluto proletario, è tutto, tutto, che festa per la Roma, batte il Karabakh e conquista... E conquista da prima, questa è la cosa importante per i sorteggi, gli ottavi di Champions. Il Foglio, mettersi in marcia contro l'Italia dei veti, c'è un filo rosso che unisce il no del 4 dicembre a tutti no allo sviluppo e il fondo di Cerasa. E poi il pezzo che domina la prima pagina, Annalena Benini, il sospetto che travolge il mondo. Fa paura la storia raccontata da Repubblica dei bambini emiliani di 20 anni strappati alle famiglie accusate di satanismo e pedofilia. Vite distrutte in nome del bisbiglio che diventa valanga. E poi c'è chi con Ilary Blasi parla alla conduttrice del reality dei record e vi racconto tutti i segreti del grande fratello Vito. Ma poi la Gazzetta, Juve, sì, missione compiuta, ovviamente il centro territoriale del quotidiano Rosa è più fondato sulla Juve, ma c'è un titolo anche su Vai Roma, è primo posto, e la cosa interessante che io voglio leggervi subito, la storia, questa copertina che faccio insieme ai titoli già nel primo blocco, è la storia dei figli ancora su Avvenire. Ho letto un pezzo veramente molto bello oggi. Sapete quanti sono i figli di NN, di madre ignota? La carica dei 400.000 figli. Mamma, mi vuoi incontrare? Non riconosciuti alla nascita, chiedono il diritto alle origini. È un pezzo di primo piano, bello, di Avvenire, di Lucia Bellaspiga, scritto molto bene. Aveva 16 anni quando rimase incinta ed erano tempi di stigma, la lettera scarlatta imprimeva ancora il giudizio e la vergogna sulla fronte delle ragazze madri. Così la fecero partorire lontano dal paese e poi le annunciarono che la sua bambina era nata morta. Decenni più tardi un addetto del Tribunale dei Minori di Firenze la contattò e le chiese a bruciapelo: «Sei disposta a incontrare tua figlia?» Tsunami di emozioni, dolore, amore, paura e desiderio, poi l'abbraccio. Mi avevano detto che eri morta, non mi sarei mai immaginata che potessi essere viva, non mi sono mai sposata. Era il 2014 ed era la prima volta che si concedeva a un figlio di NN di risalire a chi lo aveva messo in mondo legittimamente ma non lo aveva riconosciuto. Signori, questa è la vita, questa è la storia, l'apertura di pagina 6, un un grande pezzo di Lucia Bella Spiga, sono 400.000 i figli di NN che cercano i loro genitori. Tutti cerchiamo i nostri genitori nella vita e il senso delle nostre esistenze. Ci fermiamo per il meteo e torniamo. Curiamolo, leviamogli il metadone. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Io in 17 anni ho dato la mia vita per questa azienda. Non ho chiesto dei privilegi particolari, chiedevo solo che mi si venisse un pochino incontro. Non ho mai chiesto altro, se non di lavorare dignitosamente come ho sempre fatto in 17 anni. Siamo dei lavoratori, dobbiamo lavorare, vogliamo lavorare, io voglio lavorare. Ma abbiamo tutti noi una vita. Marika Ricutti, il suo nome, dipendente dell'IKEA di Corsico, licenziata perché aveva rifiutato di fatto un cambio di turno, doveva accudire, diceva, il suo figlio disabile. È il caso che oggi divide le coscienze, divide tutti noi, apre il dibattito. Ma ci sono tante cose da discutere, tante importanti. Allora vi dicevo subito il problema di Gerusalemme. Perché è l'apertura di tutti i giornali? Beh, ve lo spiego facilmente con poche righe del pezzo della Caferri di Rampini e di Stabile da Roma, New York e Beirut. Un caso di pezzo firmato a tre. Donald Trump non ha intenzione di cambiare idea e oggi annuncia lo spostamento, facendo degli Stati Uniti il primo paese importante a riconoscere di fatto Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico. Trump mantiene le promesse e la frase uscita ieri da Washington, la sua alleanza con il premier israeliano Benjamin Netanyahu è di ferro, questa è un'altra prova di fedeltà. Avete capito subito qual è la posta in gioco, ma attenzione, quando tocchi nel Medio Oriente il tassello più piccolo rischi il terremoto, c'è il rischio sullo sfondo di un conflitto fra Arabia Saudita, Iran, ci sono scenari che non si possono neanche immaginare, questa piccola, si fa per dire scelta perché è già grande, può essere veramente il prologo di un racconto drammatico che speriamo di non dover fare, ma noi siamo qui a raccontarvi tutto, il bene, il male, la morte e la vita e soprattutto la politica e le sue implicazioni. Allora, addio Ius Soli e Biotestamento in rampa di lancio per essere votato. Perché? Ma ovvio, il Biotestamento è meno divisivo. Lo Ius Soli era il provvedimento su cui il PD si interrogava per la riottosità dei suoi alleati. E allora ecco che cosa è successo nella conferenza dei capigruppo del Senato, che è sovrana, in cui votano i capigruppo. Ecco che cosa è successo. Di fronte al niet di quasi tutti i capigruppo, il PD, che aveva chiesto di calendarizzare, ha dovuto accettare che lo Ius Soli scivolasse all'ultimo punto del calendario, il sesto, scavalcato, pensate un po', dalla proposta di legge per gli orfani dei femminicidi, per i testimoni di giustizia, per la lotta al fondamentalismo jihadista. Ora è vero che la Realpolitik obbliga a fare i conti con la contrarietà alla legge dell'alleato Alfano e che l'imminente fine della legislatura sconsiglia un voto di fiducia dal quale il governo Gentiloni rischierebbe di uscire dimensionato, ma per il PD, il partito e Comminiti, Del Rio, Martina e lo stesso Renzi avevano promesso, sto leggendo Sebastiano Messina su Repubblica, scusate, sono entrato subito nel vivo, avevano promesso battaglia per lo Ius Soli fino all'ultimo giorno della legislatura, lo stop imposto dagli alleati centristi apre un problema non piccolo. Questo è il senso dello Ius Soli, Goffredo De Marchis, il biotestamento si farà, il PD sacrifica lo Ius Soli sull'altare elettorale. Però è vero che ancora non è detta la parola. Quanto durerà questa legislatura? Questo è il punto, questo è il nodo importante. Allora, la condanna di Francesca Barracciu, ex sottosegretaria del governo Renzi, si era dimessa proprio per questa inchiesta, anima un po' i giornali e il dibattito. Ovviamente viene usata dai 5 Stelle per attaccare il PD e la sua difesa è altrettanto appassionata. Io vi leggo per farvi voi un'idea. Fulvio Fiano sul Corriere della Sera, pagina 13, caso spese pazze, 4 anni alla Barraccio, ex sottosegretaria, l'uso dei fondi in Sardegna, non mi arrendo. Colpevole di peculato, condannata a 4 anni, pensate, in reclusione, una pena molto severa, e addirittura con l'interdizione dai pubblici uffici per l'intera durata della pena. Francesca Barraccio, ex sottosegretaria ai beni culturali del governo Renzi, esce sconfitta dal primo grado. Annuncia ricorso. Accolta l'accusa della procura di Cagliari, che le contesta di aver speso in modo improprio 81.000 euro di fondi pubblici quando era consigliere regionale in Sardegna. Le sentenze si rispettano e si attendono quelle definitive, il commento di Renzi, che proprio nelle stesse ore si trovava nel capoluogo isolano per la campagna elettorale. La Barraccio, 51 anni, è stata consigliera regionale dal 2004 al 2013, europarlamentare del PD dal 2012, nel 2013 sindaca di Sorgono, in provincia di Nuoro, comune di cui ora è consigliere comunale di minoranza, partecipa alle primarie per la presidenza della regione, ma, sto leggendo il pezzo sempre di Fulvio Fiano, all'indomani dell'esito vincente viene raggiunta assieme ai colleghi del PD da un avviso a comparire per 30.000 euro di spese senza giustificativo. Sono fondi, sostiene lei nel suo interrogatorio, utilizzati interamente in rimborsi benzina per viaggi in auto in lungo e largo per la Sardegna e dunque legati all'attività politica. Le successive indagini però aggiungono altri 45.000 euro alle contestazioni, tanto che Francesca Barraccio deve rinunciare alla candidatura alla presidenza della regione e poi altri 3.600 euro per un convegno organizzato dalla società Evolvere in cui era personalmente interessata. A chiusura del fascicolo il PM Cocco avanza una prima richiesta di interdizione e mette agli atti una telefonata in cui l'onorevole avvisa un amico che presto sarebbe stata chiamata a testimoniare. Un tentativo, secondo la procura cagliaritana, scrive Fiano, di inquinare le prove. Il giudice respinge la richiesta ritenendo fosse solo una condotta scomposta e deplorevole. Poi, 21 ottobre 2015, l'ex europarlamentare lascia l'incarico di sottosegretario per avere la libertà di difendersi, dice lei. Ieri in aula è sembrata colpita dalla sentenza. Sentite le sue parole. Sono trascorsi 4 anni molto duri, sono scossa, non lo nascondo. Mi sono addormentata il 30 settembre 2013 come candidata alla presidente della regione. Mi sono svegliata 6 ore dopo con l'avviso di garanzia. È un dramma della politica ed è una bandiera di battaglia politica perché è il cuore dello scontro, la questione morale fra 5 Stelle e PD e quindi verrà utilizzata purtroppo. Le sparatorie che dividono i media, come spesso accade. Allora vi leggo questa vicenda del eccesso di legittima difesa, ma poi vi dirò anche la mia opinione, da 2 giornali che la vedono in maniera opposta, anzi 3. La Stampa, ovviamente, su questa sentenza che condanna un cittadino che si è affacciato a una finestra e ha sparato durante il furto di un bancomat, e il Corriere della Sera con Gramellini e i 2 corsivisti d'assalto e Mattia Feltri sparano, scusate il gioco di parole mi è scappato, criticano ovviamente coloro che difendono questo cittadino, mentre sul Giornale a pagina 12 c'è proprio il pezzo: Brescia spara ai ladri, condanna più pesante che ai banditi armati. L'imprenditore, e questo è il pezzo di Tiziana Paolocci, pagina 12, si era affacciato dalla finestra mettendo in fuga il comando dei malviventi. Credeva di agire da bravo cittadino, ma si ritrova a pagare più del ladro. È la solita storia tutta italiana, scrive la Paolocci, dove il paradosso è la normalità, dove chi agisce a fin di bene finisce male e chi agisce male se la cava comunque. E così Giuseppe Chiarini, imprenditore di Calcinatello, che la notte fra il 29 e il 30 gennaio 2016 sventò l'assalto a uno sportello bancomat della banca di credito cooperativo, sconterà 4 mesi più del malfattore che quella cassaforte era impegnato a scassinarla. Non mi stupisco, questa è l'Italia, ha dichiarato l'uomo al Giornale di Brescia. Però scusate, vi leggo cosa dice Kit Carson a Brescia, Mattia Feltri, l'avevo citato prima. La notte del 29 gennaio il signor Giuseppe Chiarini fu svegliato da un gran botto. Si affacciò alla finestra, vide un gruppo di ragazzi che stava caricando su un furgone il banco matrasradicato dal muro. Siccome chiamare i carabinieri gli sembrava troppo burocratico, ha imbracciato un fucile e ha sparato alcuni colpi. Per fortuna non è un cecchino, ha colpito uno solo dei malviventi di 20 anni alla gamba. Ieri Chiarini ha patteggiato la pena per tentato omicidio, 2 anni e 8 mesi, 4 mesi più alta di quello dal ragazzo romeno. E allora il problema che vi pongo è: in Italia non c'è licenza di sparare, giusto o sbagliato, la legge prevede che tu abbia il diritto alla legittima difesa, si discute se puoi sparare in casa, se tu spari addirittura per colpire delle persone che sono fuori dalla tua casa, a senso delle leggi che ci sono oggi, questo non è possibile, non è neanche legittima difesa. Vi ricordo il caso di Stacchio, intervenne per difendere una persona in pericolo di vita. Qui in pericolo c'era un banco, ma vedo una bella differenza. Immagino che ci saranno delle polemiche, ma ovviamente è così. Allora, due segnalazioni, ovviamente quella di Quagliariello, il Corriere della Sera, dice esce un libro del senatore Di Ala, e rivela così il Renzi lavorò per giubilare Prodi. Corriere della Sera, Monica Guerzoni, pagina 10. Noi ci fermiamo e entriamo nella parte di Moni, oggi particolarmente succosa, anche per via di Banca Etruria. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Mattino. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E allora duello sull'audizione di Ghizzoni, il primo piano del Corriere della Sera, pagina 5, rinviata oggi la scelta della commissione, il PD è contro, si dovrà decidere anche su Draghi e Zonin. De Bortoli dice lo chiamino, se Boschi avesse agito nel penale, nel procedimento contro di lui, la verifica sarebbe stata molto più veloce. Allora, riassumo per chi non ha sentito, la commissione si dibatte sul tema se interrogare o no il principale teste della causa fra la Boschi e De Bortoli che riguarda Banca Etruria, e ora sapremo domani che cosa è successo. E il problema è che De Bortoli dice a carta bianca: non so le ragioni della scelta della sottosegretaria, è un suo diritto quello di procedere con una causa civile, so che una querela avrebbe portato a una verifica dei fatti molto più veloce. Mi stupisce, ha aggiunto, che il PD si opponga all'audizione di Ghizzoni, che in questi 7 mesi non mi ha mai smentito. Secondo De Bortoli, sto leggendo dal Corriere della Sera, Enrico Marro, che ha accusato Boschi di fake news, Etruria non è stata commissariata dal governo, ma dalla Banca d'Italia. È inquietante, dice l'ex direttore del Sole e del Corriere della Sera, che il PD stia impostando la campagna elettorale cercando di delegittimare i controllori. In retroscena di Fabrizio Massaro, così il banchiere si sta preparando al fuoco di fila delle domande. E l'inchiesta Fiorenza Sarzanini, Etruria, ecco il verbale segreto, pagina 6, del procuratore Rossi che esclude colpe, che escluse il procuratore Rossi davanti alla commissione le colpe del CDA. Pierluigi Boschi alla Consob fecero tutto i manager. Ecco, questa è la difesa importante del papà della Boschi, e quindi vi leggo che cosa dice. Nella relazione inviata da Consob al procuratore che ha determinato l'apertura dell'inchiesta, viene specificato che le responsabilità di Etruria per le contestate carenze informative presuppone che le persone fisiche deputate ai più alti livelli della sua amministrazione, attraverso azioni e omissioni o anche demandando taluni compiti ai propri collaboratori di fiducia, non sono state in grado di evitare che l'emittente diffondesse tra il pubblico informazioni incomplete. Proprio in quel dossier, sto leggendo il pezzo di Fiorenza Sarzanini, è contenuta la difesa finora inedita del banchiere, padre del sottosegretario alla presidenza Maria Elena. Boschi dichiara di non aver partecipato alle riunioni del CDA dove si presero quelle decisioni e poi aggiunge, nelle relazioni presentate annualmente al CDA dalla funzione Risk Management, peraltro rilasciate anche dalle strutture che si sarebbe dovuto attivare per una revisione della classificazione, mai sono stati minimamente evidenziati dubbi sulla corretta profilatura dei titoli. Quindi questa, diciamo così, le due campane. Ovviamente vi segnalo due pezzi molto importanti, quello del Sole 24 Ore, e siamo su questa vicenda, ovviamente sulla vicenda di Etruria, Banca Italia Consob faro sulle lettere, 5 milioni intascati dai consulenti finanziari e legali per la fusione fallita, Sara Monaci, è l'apertura di pagina 8 del Sole, che ricostruisce la vicenda complicata degli affidamenti. E poi La Verità, pagina 2 e 3, è il pezzo di Amadori che racconta la rete di relazioni. Gli inquirenti intercettarono il fratello del sottosegretario, ex funzionario di Etruria, al telefono con Mureddu e inoltre una sorta di faccendiere vicino alla massoneria, e inoltre fu lui ad aprire un conto sul quale passò 1 milione di euro per carboni, chiamato dal babbo a salvare la banca. Questo il pezzo della Verità, avete tutta la panoramica. Cose interessanti, Gandola sulla Verità parla di un'ipotesi, tentazione di Salvini correre da solo. Al leader leghista non piacciono molto i compagni della cordata imbarcati a Berlusconi, soprattutto i centristi, sognerebbe, ipotizzerebbe come alternativa di fare una alleanza ridotta con la Meloni. E poi, altrettanto importante secondo me, il problema, cioè le notizie che vi segnalavo in apertura sull'Ilva. E qui il blitz di Calenda è stato straordinario, l'afasia dei competenti e il fondo del Sole di Paolo Pombeni sulla vicenda dell'Ilva, il ricorso che rischia di bloccare il piano di risanamento, e soprattutto il pezzo che racconta Palmiotti a pagina 17 del Sole come si sta cercando di salvare il piano. Calenda, il ministro, con un blitz ha detto al sindaco: senti, quali sono le tue obiezioni, fai tu l'ordine del giorno. Quello lo ha scritto e ha ritirato la sua obiezione, resta soltanto, oggi si vedrà che succede, l'obiezione di Emiliano. In pensione a 71 anni, lo dice un dato importante dell'OCSE, e allora le letture che vi segnalo, pagina 6 del Sole, spesa pensione al top, serve flessibilità, si tratta del pezzo di Davide Colombo, e l'apertura del Giornale con Antonio Signorini che spiega come, qui è un bel dibattito anche per i cani e per i gatti, lo studio dell'OCSE svela che l'Italia è uno dei paesi con età di ritiro e oneri previdenziali più alti. Adesso, domani, anche l'età effettiva italiana salirà a 71,2 anni, pensate, la più alta d'Europa, esclusa la Danimarca. Allora, ho letto di tutto, segnalo la fattura elettronica, come cambia col questionario, lo dovete fare oppure no, sul Sole. Andiamo alla mitragliata, perché c'è molto da sparare. Corriere, pagina 23. Volete comprare l'olio di Zutotò? È il marchio, la Griff Riina, trasformato in un marchio per volontà dei figli. Sembra una boutade, per ora è vero, ed è veramente una cosa incredibile. Gomorra, una fiction pericolosa. Intellettuali, scrittori, produttori, molti criticano la fiction di Sky. Il Giornale a pagina 14, ma tanti altri giornali segnalano questo. Beh, un dibattito che si apre, c'è apologia della criminalità organizzata in questa fiction, è un dibattito che oggi entra dentro le nostre case. Signori, c'è la foto di una specie di ovetto sulla pagina della Verità. La macchina per suicidarsi si può scaricare da internet e stampare in 3D. Poi ci metti dentro 5 litri di azoto liquido e ti puoi suicidare per soffocamento in 10 minuti. Vedo Rachele molto interessata. Una maestra per punire un atto di bullismo ha costretto, cioè ha suggerito, Libero, pagina 15, i compagni di classe a sputare in faccia a colui che ha sputato. Mi sembra più il taglione che un provvedimento educativo. Hanno fatto barbecue alcuni dipendenti di un cimitero in mezzo al, diciamo, al loro posto di lavoro. Sono indagati per violazione di sepolcro. E la prima consegna di un postino robot si chiama Iape e può fare pure 20 km. Io il postino robot, boh, non lo so, non mi fa impazzire. E la verità, un supermercato inglese, può essere un provvedimento epocale, autorizza la vendita di cibi scaduti ma sicuri. È una lotta allo spreco? Non lo so, ne discutiamo per i cani e con i gatti fra pochi istanti, dopo il GR con Oscar Giannino.